Mercoledì 4 aprile, le aperture, il Sole 24 Ore, lavoro, intesa tra Monti e i partiti, questo è il titolo di prima pagina. La Stampa invece intervista il premier Mario Monti con il suo direttore Mario Calabresi, lavoro serve un sì veloce, queste le parole del premier. E poi tutte le altre aperture sono sulla Lega. La Lega nello scandalo dei fondi, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, scandalo Lega, i soldi pubblici a Bossi. Il Fatto Quotidiano, Bossi NC, auto, viaggi, alberghi a spese nostre. Il Messaggero, soldi per la famiglia Bossi. Il Manifesto mette Bossi e il trota, il figlio, la famiglia. Viene giù la Lega, titola Libero. Tiro alla Lega, titola il giornale. Affari di famiglia, titola l'Unità e c'è la foto di Bossi. Gli affari sporchi di Bossi e Belsito, il tesoriere che si è dimesso, questo è il titolo del Secolo XIX. Bossopoli, questo è il titolo del Quotidiano Nazionale. Insomma, come vedete, il tema del giorno politico e di inchiesta giudiziaria è questo e poi lo vedremo. Vedremo anche come apre la Padania, oggi interessante, anzi ve lo dico subito se riesco a trovarla, eccolo qua. Allungano le mani su Bossi per fermare un popolo. Così è il titolo della Padania. Però le notizie da cui voglio partire, la prima l'ho scovata, pagina 7 del Messaggero, è una notizia che ha solo il Messaggero. Ricordate che c'è una commissione presieduta dal presidente dell'Istat, Giovannini, che già aveva stabilito con grande polemica dei politici che i nostri deputati e senatori sono tra i più pagati in Europa. I nostri parlamentari poi si sono adombrati, hanno detto con una sorta di controinchiesta che non è vero, non è così. Sta di fatto che il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, questa è la notizia che dà il Messaggero con Diodato Pirone a pagina 7, con ogni probabilità oggi lascerà l'incarico, un incarico gratuito, è bene dirlo, di presidente della commissione sul livellamento delle retribuzioni dei parlamentari e degli alti burocrati tra Italia ed Europa. Dovrebbe così chiudersi l'attività della commissione che ai primi di gennaio suscitò il vespaio di polemiche presentando i chiacchieratissimi dati sui guadagni dei parlamentari paragonati a quelli europei. La mossa di Giovannini, che è rientrato questa notte da New York, dovrebbe essere contemporanea alla diffusione della seconda relazione della commissione dedicata agli stipendi dei grandi capi dell'amministrazione pubblica. Il perché delle dimissioni è perché si tratta, secondo il Messaggero, di conclusioni in questa relazione molto deludenti che non forniranno alcuna cifra. Questo perché nella relazione che la commissione accompagnerà a questa nuova inchiesta ci sarà scritto che le ragioni per cui non si è riusciti a tirar fuori un ragno dal buco è la scarsa collaborazione delle amministrazioni nel mirino, l'impossibilità di paragonare alcune strutture solo italiane come ad esempio l'agenzia del volo con amministrazioni estere, la lenta e parziale risposta delle amministrazioni straniere che non capivano perché dovevano consegnare a organismi italiani dati ritenuti sensibili e infine l'oggettiva difficoltà di paragonare buste paga calcolate su sistemi fiscali e contributivi diversi e spesso deformate da benefit. Insomma, la presa d'atto di un totale fallimento, secondo il Messaggero, per cui Giovannini oggi annuncerà lascio. La trasparenza è impossibile. Oh, che bella ammissione. E questo sul Messaggero. Mentre mi ha colpito su Chi, leggo quello che c'è su un settimanale, di solito non accade, ma d'altronde ha colpito anche Libero e dunque c'è su un quotidiano in prima pagina, la compagna Ferilli ha fatto un'intervista, Sabrina Ferilli, vuole tassare i poveri. Questo è il titolo di Libero. È il senso dell'intervista che ha rilasciato a Chi, nella quale si dice molto arrabbiata perché si spremono i ricchi, i cosiddetti ricchi. Sentite cosa ha detto Sabrina Ferilli. Tutti a un tratto i soldi in Italia sono diventati un peccato e tutti quelli che avevano due lire in più erano da massacrare. Questa filosofia non solo non aiuta nessuno, ma fa sì che chi ha due soldi se li porti fuori e di conseguenza diminuisce l'offerta di lavoro. Ma dico io, questa è Sabrina Ferilli, non io, ma dico io, se tu devi fare un bottino di quattrini tramite le tasse, e lo devi fare perché altrimenti sto paese va a zero, non lo puoi fare sul 10% della popolazione, i cosiddetti ricchi. Quelli già li spremi. Io pago il 60% di tasse perché 2 lire ce le ho da parte, 2 soldi, 2 euro. È inevitabile che devi andare sulle fasce più basse, perché sono quelle che contano più lavoratori. Invece no, lo Stato decide di spremere ancora di più i ricchi e quelli che fanno vanno a vivere da un'altra parte. Se tu come Stato mi chiedi più del 65% di tasse, io sono costretto a chiudere. Così Sabrina Ferilli, Libero, prende spunto da questa intervista per titolare così: la compagna Ferilli vuol tassare i poveri. Albina Perri in prima pagina: ammazza, da una che si è messa a zinne di fuori per la Roma, pur essendo della Lazio, non ti aspetti certo della coerenza. Ma il salto della quaglia della rossa Ferilli lascia comunque sgomenti. Lei che è cresciuta pane Berlinguer e che si è spesa per Veltroni e che per anni ci si è presentata come la guru buona della sinistra, ora parla come il più scafato dei tycoon. Lo Stato canaglia le ruba i 2 sordi che ha fatto. E lei resta qui per pietà, ma ci avrebbe tanta voglia di andarsene perché stufa marcia di questa ingiustizia, di queste tasse che chiedono sempre a loro, ricchi, e andassero un po' a pigliarsele dai poveracci, che sono pure di più. Ecco, questo è il sunto dell'intervista, ovviamente anche provocatorio, che c'è su Libero. Sabrina Ferilli: sono arrivata a pagare il 60% di tasse perché 2 lire ce le ho, ma a venir spremuti sono sempre e solo i ricchi. Vabbè, ci dobbiamo fermare qualche minuto, 5 minuti? Sì, ci sentiamo tra poco. 24 mattino. Allora, alle 7:33 minuti, moltissimi giornali aprono sulla vicenda, ci sono paginate e paginate di commenti della Lega, la vicenda giudiziaria che ha travolto da ieri la Lega. Vediamo di che cosa si tratta e ho cercato di trovare gli articoli, gli spunti più interessanti in questo mare magnum di paginate e paginate di giornali. Intanto, vabbè, devo aprire con, lo ripeto, il titolo della Padania a questo punto, l'organo ufficiale della Lega. Allungano le mani su Bossi per fermare un popolo. Questo è il titolo di prima pagina e l'editoriale del direttore Stefania Piazzo. C'è sempre qualcuno a cui giova mettere in discussione la politica, gli uomini che hanno dato una speranza di cambiamento nel paese, messo a rischio la tenuta del sistema che ha ipotecato la democrazia. Hanno deciso che ora deve essere il turno della Lega. La magistratura ha gioco facile davanti alla politica debole. E appunto hanno deciso che deve essere il turno della Lega nel tentativo di assimilarla, globalizzarla come già si tentò con Mani Pulite. Insomma, l'idea è quella di un complottone, anche se la parola complotto non c'è. La vicenda è riepilogata a pagina 11 del Sole 24 Ore. Rimborsi elettorali, soldi ai Bossi. L'accusa da parte della procura di Napoli è questa, che indagano per la verità anche la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, le procure di Napoli e di Milano. È stato iscritto l'ex tesoriere, perché ieri si è dimesso, Francesco Belsito, della Lega nel registro degli indagati con l'accusa di appropriazione indebita aggravata, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio, l'accusa di aver preso soldi che noi cittadini diamo con il finanziamento ai partiti, i cosiddetti rimborsi elettorali, e li avrebbe utilizzati per cene, viaggi, soggiorni, alberghi pagati ai figli di Bossi, alla moglie Manuela Marrone, all'ex vicepresidente del Senato Rosi Mauro, altri soldi per ristrutturare la villa del leader Bossi a Gemonio, altri ancora per pagare la campagna elettorale di Renzo Bossi, il Trota, alle regionali del 2010. Insomma, le casse della Lega Nord erano un bancomat di famiglia. Queste sono le accuse. Tra l'altro, sul Corriere della Sera Marco Cremonesi racconta proprio di come ci fosse questa battuta che circolasse sui figli di Bossi. Dove sono? Saranno passati al bancomat. E il bancomat era per tutti, per i detrattori, la sede della Lega. Tanto che il Fatto Quotidiano, a pagina 3, con Davide Vecchi, me fa un articolo: i boys del Senatur tra asine, multe e denunce. Scrive Davide Vecchi sul Fatto Quotidiano: Riccardo Renzo, Roberto Libertà ed Eridiano Sirio, questi nomi dei 4 rampolli di casa Bossi, vivono tutti all'ombra del padre, escluso il Trota, che guadagna 12.000 euro come consigliere regionale della Lombardia. Tutti gli altri hanno deciso di imitare le gesta giovanili del padre, non fare nulla. L'unico dei quattro che ha uno stipendio fisso è proprio Renzo, gli altri invece recapitano le spese con estrema puntualità a Nadia Dagrada, segretaria amministrativa del Senatur, che accumula sulla scrivania in via Bellerio, la sede della Lega, multe, fatture di ristoranti, feste in discoteca, biglietti aerei, estratti conto delle carte di credito, si deve pur riempire il tempo libero, ironizza il fatto che poi fa un profilo di che cosa fanno, a parte Renzo Bossi, consigliere regionale, cosa fanno nella vita gli altri tre fratelli, gli altri tre figli di Umberto Bossi. E tra l'altro l'accusa è anche pesante. A pagina 3 del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, l'accusa delle procure è questa: l'ex tesoriere Belsito era vicino all''ndrangheta. Tramite un uomo, Romolo Girardelli, per tutti l'ammiraglio, genovese, 53 anni, ma dal 2002 sotto inchiesta con Paolo Martino e Antonio Vittorio Canale, soggetti al vertice della cosca De Stefano di Reggio Calabria. Francesco Belsito faceva affari con loro, secondo i magistrati. Ed ecco che allora, gioco forza, Roberto Saviano, ricordate la polemica di quando fece «Vieni via con me», con Fabio Fazio, e disse anche la Lega dialoga con la mafia al nord, con l''ndrangheta. Ci fu la polemica, l'allora ministro dell'interno Maroni che chiese e pretese di intervenire in diretta per la rettifica. Oggi Roberto Saviano in prima pagina di Repubblica, il velo caduto in via Bellerio ricorda quella vicenda. Le mafie interloquiscono con tutti i poteri, anche al nord, anche con la Lega. Un anno fa questa frase pronunciata in TV generò un putiferio. Un anno dopo la direzione distrettuale antimafia conferma le parole che pronunciai durante la trasmissione, le conferma sotto forma di accusa al tesoriere della Lega, Francesco Belsito, non una mela marcia in un partito sano, ma un uomo che garantiva che i soldi pubblici finissero nelle tasche dei familiari e amici di Bossi. Scrive Saviano, la Lega ora risponderà alla giustizia attraverso il suo tesoriere, ma non è più sufficiente. Ora la Lega non potrà più sbandierare la sua diversità sul tema mafia. Da oggi ne siamo certi, la storia di questo partito movimento non sarà più la stessa. E che la storia possa cambiare, si capisce dai giornali. Sentite Maurizio Belpietro, direttore di Libero, in prima pagina: la malattia del capo ha ucciso la Lega. Questa è la linea di Libero. È l'epilogo di una situazione opaca creata dopo la malattia del leader, che ora deve lasciare. Così Maurizio Belpietro, sotto il titolo «Viene giù la Lega». E anche Maroni, che ha detto «Ora bisogna fare pulizia». Tosi fa un'intervista a Repubblica, candidato sindaco a Verona e ricandidato. «Ci salviamo se torniamo alle origini». L'idea è di Piazza Pulita, cioè cercare di cambiare le cose. Mentre Bossi pare che abbia detto questa un'altra vicenda a sua insaputa, io lo dico, anche questa non si può reggere. Tra le frasi che avrebbe detto Umberto Bossi ieri nel vertice alla Lega è: denuncerò chi ha utilizzato i soldi della Lega per sistemare la mia casa. Io non so nulla di questa cosa. No, francamente l'ennesima casa sistemata forse a insaputa del proprietario della casa è una cosa che solamente nel nostro bislacco paese si può tollerare, perché d'altronde ieri ancora i giornali titolano della vicenda, di un'altra vicenda che riguarda un altro tesoriere, un altro finanziamento ai partiti, Margherita, Rutelli, Lusi ha fatto tutto senza che io sapessi, a mia insaputa è la frase degli ultimi tre anni. A mia insaputa, voi di qualsiasi cosa vi beccano a fare, dite è successo a mia insaputa. Provate, insomma, il vigile urbano vi ferma oggi che avete messo in divieto di sosta, qualcuno ha parcheggiato la vostra macchina a vostra insaputa, e se lo beccate lo gonfiate così. Provate a spacciare questa notizia e poi vedete e mi dite come va a finire. Il migliore ritratto di chi sia Francesco Belsito lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 5, Alessandro Trocino. Da volontarioso e diligente autista di Alfredo Biondi, che dice non gli davo una lira. A 22 anni era stato condannato proprio lui, Belsito, a un mese e 10 giorni per guida senza patente. E poi è diventato sottosegretario alla semplificazione, ben remunerato. ex buttafuori, animatore della discoteca genovese Cézanne, ex vicepresidente di Fincantieri, da giovane squattrinato simpatizzante di Forza Italia a custode dei segreti finanziari della Lega, straordinariamente rapida l'ascesa e altrettanto veloce la discesa di Francesco Belsito, 41 anni, genovese, tesoriere del Carroccio indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato. La leggenda narra che sia riuscita a ingraziarsi Umberto Bossi e il suo cerchio magico portando focacce e vino in via Bellerio. Quel che è certo è che è riuscito soprattutto diventando l'ombra di Maurizio Balocchi, l'ex tesoriere. Ma poi una storia tra diplomi traballanti, lauree fittizie, abuso di Porsche, fallimenti societari, amicizie compromettenti, la doppia laurea, per esempio. Nel curriculum della regione è laureato in scienze della comunicazione. Sul sito del governo risultava dottore in scienze politiche. Lui spiega che i titoli sono stati presi a Malta e a Londra, ma sono istituti non riconosciuti. A casa di Belsito è spuntato anche il biglietto misterioso da visita di Ruby Rubacuori. Proprio lei, Ruby, ve la ricordate? Ma ha due lauree? In realtà forse non è neanche diplomato. Il dottor Belsito, che è anche un suo collega, così un giorno viene presentato all'ordine, al presidente dell'ordine dei commercialisti di Genova, ma qualche giorno dopo il presidente confessa: ma quale collega? Belsito non è commercialista. Anzi, ai cronisti genovesi raccontava di essersi diplomato ai palazzi in città, ma in realtà il diploma sarebbe stato preso o inventato in una scuola di Fratta Maggiore a Napoli, specializzata in recupero anni. Secondo i carabinieri, il nome di Belsito non era nell'elenco degli esaminandi e la firma del preside non corrispondeva. Insomma, una roba, una vicenda incredibile. Due lauree, ma forse ha due lauree, ma forse non è neanche diplomato. La storia è quella dei finanziamenti ai partiti. Poi gira e rigira, si torna lì. Il Sole 24 Ore racconta i rimborsi 10 volte più alte delle spese. Mariolina Sesto, a pagina 10 del Sole 24 Ore, ma anche Sergio Rizzo sul Corriere della Sera racconta e ricorda come avviene il rimborso ai partiti, quello cancellato per referendum, reintrodotto il finanziamento ai partiti, reintrodotto sotto forma di rimborso. Il rimborso era in tutto il mondo: se uno spende 100 ti ridanno 100, qui in Italia se i partiti spendono come la Lega 3 milioni e mezzo in spese ne incassano 41 milioni di rimborso, ma questo vale per tutte le forze politiche in base ovviamente ai voti che prendono. Per tutte le forze in 10 anni i rimborsi elettorali aumentati del 1110%. Così Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Di questo parleremo alle 8.30, avremo ospite Gianluca Pini, deputato della Lega, e l'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori. Italia dei Valori che avete sentito anche in giornale radio, anche i radicali lo vogliono fare, i radicali Italia dei Valori, rifare un referendum per cancellare i rimborsi ai partiti. Ma a che serve? Tanto lo rimettono? Non lo so, magari a spendere un'altra paccata di soldi, direbbe qualcuno più importante di me. Intanto Mario Monti, il premier, fa un'intervista alla Stampa al direttore Mario Calabrese. Da questa ripartiremo dopo le informazioni sul traffico. Serve un sì veloce sulla riforma del mercato del lavoro. Questa è la parte più importante dell'intervista che Mario Monti rilascia alla Stampa. Pagina 1, 2, 3, è il direttore Mario Calabrese che lo intervista. Parla del suo viaggio, sono due pagine molto intense. Sintetizzo la parte forse più interessante, più attuale, dopo il viaggio in Asia. Riguardo alla riforma del mercato del lavoro, dice Monti, credo che dovremmo cercare tutti di ragionare meno in termini brevi per essere capaci di orientarci al medio-lungo periodo, soprattutto quando si ragiona di politiche pubbliche. Non si può fare la quotazione oraria delle probabilità che una riforma vada in porto. Purtroppo, per fortuna, la natura, le persone, i documenti, le carte, le idee hanno tempi di evoluzione e di maturazione. E riguardo alla domanda che tipo di modifiche è disposto ad apportare, questa è la frase centrale, risponde Monti: il disegno di legge che è in corso di finalizzazione da parte del governo non si discosterà significativamente da quanto è stato tratteggiato nel documento che varammo al Consiglio dei Ministri. Quando sarà sottoposto al Capo dello Stato, al più presto, è la risposta di Monti. In che tempi pensa che possa essere approvato? è molto rilevante per l'impatto complessivo della riforma non sono soltanto i suoi contenuti, ma anche la velocità con la quale il Parlamento svolgerà il suo doveroso e attento esame. Se anche senza il decreto legge i tempi saranno rapidi, allora questo gioverà molto e servirà a mostrare all'Italia e al resto del mondo che il processo di riforme non ha subito un momento di arresto. È importante non perdere il momentum, dice così Mario Monti, intervistato dalla Stampa. E allora, tra l'altro, c'è stato un vertice serale, notturno, nel quale c'è stato un comunicato di Palazzo Chigi proprio di poco fa, di questa mattina. Il comunicato fa capire che è andato bene l'incontro, e dunque governo e leader, si legge, questa volta lo leggo dalle agenzie, questo non lo trovate sui giornali perché è battuto dalle agenzie da poco fa, il governo e il leader delle forze politiche di maggioranza si sono impegnati per un iter di approvazione efficace e tempestivo della riforma in Parlamento. Insomma, si parla di esito positivo al termine del vertice coi partiti. Tutti i dettagli li trovate su come potrebbero essere apportate delle modifiche sostanziali o no, Monti dice non sostanziali rispetto a quello che è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Trovate tutto a pagina 3 del Sole 24 Ore e pagine seguenti. Articolo 18, causali rigide e più conciliazione, scrivono Davide Colombo e Giorgio Pogliotti, passa per una stretta della tipizzazione delle causali del licenziamento individuale per motivi oggettivi, la mediazione finale sul nuovo articolo 18, e per il rafforzamento della conciliazione preventiva con l'obiettivo di ridurre il contenzioso. In cambio delle limature sulla flessibilità arriverà anche un alleggerimento sulla stretta ipotizzata per le partite IVA e una maggiore gradualità sull'entrata in vigore delle nuove regole. Insomma, Repubblica titola addirittura articolo 18, accordo nella notte, con una sorta di preveggenza. Affianco a questo, come dire, io non lo so, speculare sulle storie personali è sbagliato, nessuno sa in fondo che cosa abbia spinto questa signora di 78 anni di Gela, chiamata da tutti nonna Nunzia, a farla finita e a buttarsi dal balcone e a suicidarsi. Certo, tutti i giornali collegano questo evento con il fatto che gli era stato comunicato dai figli che la pensione aveva subito un taglio ulteriore di 200 euro, scendendo da 800 a 600 euro. Altri giornali raccontano che in realtà era depressa perché era rimasta vedova da qualche anno. Sta di fatto, Nunzia suicida per disperazione, non si vive con 600 euro al mese, così titola Repubblica. La Stampa fa un'intera pagina, le tagliano la pensione, disperata si toglie la vita. L'INPS le aveva comunicato che l'assegno passava da 800 a 600 euro e ora i figli dicono sia considerata una vittima dello Stato. Il suicidio quotidiano anche per Libero, le tagliano la pensione, si butta dalla finestra. Vabbè, la do come spunto di cronaca. Mentre continua la questione del calcio scommesse, arrivo anche al calcio, tranquilli, quelli che mi dicono parlerai del Milan anche oggi. Certo, parlerò del Milan, come tutti i giorni, se si potesse più volte al giorno. Comunque arrivo anche al calcio giocato, rubato, non so quello che è successo ieri. In ogni caso, il calcio scommesse invece, ora Masiello, e non so se si può dire ci faccia pena oppure no, Masiello è il giocatore ex del Bari che ha ammesso: ho venduto le partite, ho fatto un autogol apposta nel derby, tra l'altro, contro il Lecce, il derby pugliese. Ora è in lacrime, piange, è rinchiuso nella cella da solo nell'infermeria del carcere, con tuta infradito, piange, si dispera. Io su questo vi voglio segnalare Francesco Merlo, con la sua solita fine penna, su Repubblica, in prima pagina, scrive un articolo dal titolo «Quei fedelissimi infedeli del povero calcio truccato, la vicenda dei tifosi». «Sono inediti e inauditi questi tre capi degli ultra di Bari, biancorossi fino alla morte, che hanno venduto la loro squadra. Questi tre generali dei super tifosi violenti non sono neppure classificabili nell'antropologia del traditore. Come se si scoprisse che i tre moschettieri vendevano la regina al cardinal Richelieu». Di certo sono questi fedelissimi infedeli di Bari, paradossi tutti italiani, impensabili tra gli hooligans inglesi o olandesi, che sono manigoldi, sì, ma proprio perché fanatici. e possono dunque stordirsi nella birra, nelle botte, negli striscioni aggressivi, nei canti tribali dell'irresponsabilità civile, ma con tutte le loro ribalderie non prevedono il doppio gioco, l'uso della passione ultra come risorsa di malaffare ai danni della propria squadra, il tradimento dell'identità certificata nei colori e nei riti arcaici dell'appartenenza etnica. A Bari, invece, questi ultra pretendono di dominare la squadra al di sopra di ogni liceità e stabilire quando deve vincere e quando perdere. La squadra non esiste, è un pretesto, è un prodotto del loro tifo. E difatti nel 2011 invasero il campo e presero a manate e spintoni i giocatori come assaggio di quel che avrebbero subito se non avessero vinto il derby. Ma un mese prima, aprile, i capi di questi stessi ultra avevano convocato in privato i calciatori per convincerli a perdere col Cesena e la Sampdoria. Voi vivete a Bari e sapete quel che può succedervi, anche noi dobbiamo scommettere. Dunque, nella Bari delle cozze pelose, degli appalti pubblici truccati, delle escorte, della malasanità, delle parentopole all'università, al Petruzzelli, è saltata anche quella certa moralità insediata nell'immoralità del tifoso estremista. Così Francesco Merlo, gli infedeli del pallone truccato. E allora il pallone giocato. Titolo della Gazzetta dello Sport: Barça con l'aiutino. Questo è il titolo. Insomma, Barcellona ha vinto 3-1, è d'altronde la squadra più forte del mondo. Ha avuto due rigori, uno dei quali, come definirlo? Il secondo, uno scempio arbitrale, per essere sobri alla Mario Monti. Comunque, 3-1, vabbè, dai, confidiamo tutti nel ritorno. Ah no, no, Peter mi dice no, è finita, va bene. E allora al giornale radio.